explosion. Eczema. Enigma. Techno, trans, delirium. Techno, trans, delirium. Energy, a cyborg. Techno, trans, delirium. Disegni nell'aria, enigma in nulla sei tu. Enigma. Vivi il presente col vuoto nella tua mente. Ambiente. Ti guardo, ti vedo, ti parlo, ma non trovo niente. Illusion. Se apro la mente io non ci trovo niente. Illusion. Ambiente. Illusion. Eczema. Hypnotic. Energy. Cyborg. Ambient. Ambient. Disegni nell'aria, enigma e nulla sei tu. Enigma. Vivi il presente col vuoto nella tua mente. Ambient. Ti guardo, ti vedo, ti parlo, ma non trovo niente. Illusion. Se apro la mente io non ci trovo niente. Enigma. Techno, trans, delirium. Cyborg. Energy. Techno, trans, delirium. Disegni nell'aria, enigma e nulla sei tu. Presente col vuoto nella tua mente. Ti guardo, ti vedo, ti parlo, ma non trovo niente. Se apro la mente, io non ci trovo niente.